Bene, cominciamo innanzitutto col dibattito. Col dibattito sulle relazioni di Pietro Costa e di Raffaele Grassi. Posso dire io qualche cosa a Costa? Purtroppo la tua relazione è stata letta in maniera così rapida che io ho fatto fatica infatti questo, però era così piena di suggestioni che proprio io devo dire la verità, sono stato molto colpito in particolare dal forte richiamo che tu hai fatto nelle due parti, insomma, a questa dimensione antropologica che sta alla base della costruzione del concetto di cittadinanza. E credo anch'io che sia indispensabile per affrontare questo tipo di problemi, non solo quello della cittadinanza, ma forse in generale tutti i problemi che sono sul tappeto in questi giorni nel nostro seminario, sia indispensabile rifare questo bagno, insomma, o comunque rifare i conti con il problema del soggetto, insomma, dell'uomo. Ecco, anzi, io per dire la verità, personalmente, sto cercando in tutti i modi di rivisitare la storia costituzionale dell'Europa e in modo particolare la storia dello Stato, partendo da questo problema del soggetto, per capire se il soggetto continua a essere, se è possibile continuare a ritenere il soggetto il criterio, insomma, su cui misurare le forme di organizzazione politica che si sono succedute nella storia costituzionale. Questo per me è veramente importante, quindi condivido integralmente questo tipo di impostazione. Detto questo, tu concludevi dicendo che non è possibile risolvere oggi il problema della cittadinanza e in generale il conflitto che c'è oggi fra le due appartenenze e i due diritti, se non ritrovando un modello antropologico nuovo che sia altrettanto forte del modello antropologico che all'epoca della Rivoluzione francese ha caratterizzato un momento di sintesi in cui la cittadinanza si è il concetto di cittadinanza si è formato in maniera unitaria. Ecco, io questo discorso lo capisco e lo accetto, però ho una preoccupazione che è questa, cioè che è questa. Non sono sicuro che l'uomo naturale di cui tu parli con riferimento alla Rivoluzione francese sia una realtà che può essere fissata solo sul naturalismo di Locke. A me sembra che, ti chiedo, vorrei capire meglio, perché è solo con questo episodio, solo in questo momento, cioè solo dalla fine del Seicento in poi, che è possibile cogliere questa realtà di fondo che spiegherebbe poi la dimensione di cittadinanza che si forma. Io sarei portato a vedere invece il giusnaturalismo di Locke come il punto d'arrivo di una vicenda ben più lunga, in cui però il problema dell'uomo come uomo naturale, cioè come uomo libero, capace di porsi degli obiettivi e di raggiungere questi obiettivi con le sue sole forze, appunto si era sviluppato. Ripeto, la storia di questo uomo naturale sia molto più lontana. Ma questo non è solo un fatto così, insomma, di costruzione storica. Questo ha a che fare col fatto che, secondo me, proprio per la lunga storia che ha questo soggetto, con la Rivoluzione francese, o per meglio dire, con la reazione alla Rivoluzione francese, interviene già una mutazione antropologica. Cioè questo nuovo soggetto antropologico che tu dici oggi bisogna ritrovare, ecco, io mi chiedo se non ci sia già, proprio subito dopo la Rivoluzione francese, come risposta alla Rivoluzione francese. E quindi, cioè, voglio dire, accetto il tuo modo di impostare il problema, però farei una violenta, proporrei un violento slittamento cronologico di questi problemi più comuni. Nel senso di dire che mi pare che vedrei la Rivoluzione francese come punto finale di un percorso molto lungo, secolare, precedente, risalente prima di Locke. E contemporaneamente vedrai invece, nella reazione alla Rivoluzione francese, che sono anche le cose di cui parlava sotto il profilo dello Stato stamattina Maurizio Fioravanti, eccetera, vedrai già lì la fondazione di questo modello antropologico che tu dici che oggi bisogna ricercare. Non so se però per te questo è assolutamente... cioè se viola completamente, se sconvolge completamente il tuo quadro, oppure se il tuo quadro può stare in piedi anche con questa diversa collocazione cronologica che io propongo. Cioè io credo che questo uomo antropologico nuovo che bisogna cercare oggi, in realtà è venuto fuori già alla fine del Settecento e fine dell'Ottocento, in reazione anche alla Rivoluzione francese, e che questo qui ha a che fare fortemente con quella modifica di cui parlavo stamattina, che sarebbe anche la creazione di un mondo, di un universo di riferimento diverso rispetto a prima, non più lo Stato, cioè il modello antropologico vecchio secondo me si riferisce allo Stato, il modello antropologico nuovo si riferisce a qualcosa altro di cui lo Stato diventa semplicemente una componente. Chiedo scusa, ma per aprire il corso del Franco. Dato il rispondo forse dopo altre 10 presenti. Facci che c'è il prossimo. Intervengo sulla relazione di Pietro Costa, affrontando un aspetto particolare, cioè il passaggio che lui ha delineato molto chiaramente, secondo me, da ancora una volta la problematica dello Stato di diritto è quello che è chiamato Stato costituzionale, mi sembra proprio decisiva, vista attraverso la prospettiva del significato, quindi il riferimento semantico di cittadinanza. D'accordissimo per quanto riguarda la cittadinanza nello Stato di diritto, che si muove in questa tensione tra sovranità dello Stato e concetto di uomo. Basta pensare appunto a Heidegger, che definisce questa cittadinanza come Staatsangehörigkeit, ossia cittadinanza come titolarità di diritti pubblici soggettivi, che vuol dire che si dispone di diritti in quanto lo Stato ha conferito la capacità giuridica, quindi proprio titolarità di diritti, ma sulla base di una chiara dipendenza da parte nei confronti dello Stato. Molto suggestivo è anche il passaggio, appunto, cioè la fine di questo concetto di cittadinanza e il passaggio allo Stato costituzionale. Mi chiedo quanto incida in questo il suggerimento che hai avanzato, cioè dire, all'idea di cittadinanza forse apparteneva anche una connotazione di tipo etico. Lo Stato di diritto, infatti, è uno Stato etico, è certamente uno Stato etico. È la perdita forse di questo fondamento che apre la frattura all'interno dell'odierno concetto di cittadinanza, divisa tra appartenenza condivisa da tutti e conflitto tra diritti, che invece è appunto il conflitto tra soggetti titolari di diritti diversi. Ecco, questo mi sembra veramente estremamente significativo. cioè dire appartenenza alla comunità politica, ma sulla base di questo fondamento comune, conflitto tra diritti. Ecco allora la domanda, quali pensi possa essere il fondamento oggi per il concorso che sono l'antropologia? Nel dibattito contemporaneo mi sembra si possa andare a vedere forse due filoni. Uno, ricostruire la cittadinanza sulla base dell'appartenenza alla comunità nazionale, che per esempio è la posizione dei comunitari nazionalamericani, oppure ricostruire l'idea della cittadinanza su questa idea di riconoscimento di comuni principi giuridici che è per esempio dalla tesi di un autore come Habermas. Io vorrei intervenire brevemente sulla relazione di Raffaella Gradi, non tanto per fare delle domande, quanto per mostrare interesse verso quello che ha detto, in particolare questo concetto della libertà all'interno dell'amministrazione garantita come amministrazione, dei limiti alla libertà che in sostanza prevalgono nell'elaborazione concettuale sulla libertà stessa, sulle libertà stesse. Ecco, mi interessava in particolare questo tema della libertà che si estrinseca proprio attraverso l'amministrazione, le leggi amministrative, questa partecipazione, cioè e questa teorizzazione. Ecco, io vorrei sapere, è esplicita questo, diciamo, questa elaborazione, e quindi in un certo senso c'è una consapevolezza, ecco, che si sta forgiando questi concetti all'interno proprio delle necessità della costruzione dello Stato liberale, dell'amministrazione, quindi anche del movimento politico del trasformismo? Cioè, questi passaggi sono espliciti oppure si possono solo vedere noi, diciamo, a posteriori? Ci sono, ma non quello che mi piacerebbe sapere è se anche i soggetti, ecco, secondo te, avevano questa consapevolezza, oppure è una cosa che, diciamo, che noi vediamo solo, ma io ho l'impressione che la vediamo noi a posteriori, non ci fosse questa profonda consapevolezza di quello che stavano facendo, però sì, mi piacerebbe sapere la tua opinione in proposito. Benedusi. Una breve domanda a Costa. Rispetto alla cittadinanza come appartenenza, come tu la presentavi, o come è possibile tematizzare la cittadinanza come appartenenza, quando e come viene tematizzata la figura della polide, quali effetti conoscitivi può produrre rispetto al paradigma della cittadinanza? Come pieno, come, diciamo, il contrario, l'opposto al paradigma della cittadinanza, o come in qualche modo irrelato alla cittadinanza, no? Come, quando appare questa figura della polide, sotto quali forme, ecco, e che nesso può avere con il problema della cittadinanza? Grazie. Un'osservazione sulla relazione di Chiesa, con la quale ovviamente discuto spesso, ma poi queste sono anche le occasioni per chiarirsi le idee. A me pare molto fertile questo discorso sulla cittadinanza, che lui ha mutuato dal Marshall, come punto di equilibrio tra appartenenza e diritti, no? Una cittadinanza che sia solo un insieme di diritti individuali non fa appartenenza, non costruisce ordine politico, anzi può minacciarlo in qualche misura. E l'inverso, anche una cittadinanza che sia solo appartenenza a nazione, a popolo, se è solo questo, può finire per minacciare i diritti intesi nel senso della radice britannica, liberty and property. Ora, la sua ipotesi è che questa ricostruzione, che è un programma, ma secondo me già sufficientemente delineato, è che la rivoluzione riuscì a costruire un equilibrio tra queste due cose. So, un testo come la Dichiarazione dei diritti dell'89 costruisce un buon equilibrio tra appartenenza e diritti, quindi una nozione sufficientemente chiara di cittadinanza. A suo modo, anche la dottrina dell'Ottocento, dello Stato di diritto, è riuscita a far questo, mi pare dicesse Pietro, questa è la prima domanda che volevo porre. Forse sbilanciandosi un po' dal lato dell'appartenenza, cioè si hanno diritti individuali in quanto si è membri dello Stato che impersona la nazione, però alla fine c'è anche la risultante dei diritti individuali, c'è la battaglia per le garanzie giurisdizionali e via dicendo. Quindi anche la dottrina dell'Ottocento ha costruito questi equilibri. Ora, dopo questa dottrina, questo volevo dire, non è che non c'è stato niente. C'è stato un terzo tentativo di costruire un buon equilibrio di cittadinanza che è direttamente fondato sulla Costituzione. Questo mi pare dicesse anche Gustavo. Cioè la Costituzione è, vuole essere sia, nel termine della dottrina tedesca, sia Rahmenordnung, cioè che detta regole di condotta perché i diritti individuali possano essere forti e garantiti, ma contemporaneamente anche l'appartenenza, cioè Grundordnung, cioè scelta di fini fondamentali, prescrittivi in lungo periodo, che determinano l'identità di una collettività, che dice si popolo o nazione. Tutte le costituzioni che abbiamo del dopoguerra, italiana, il Grundgesetz tedesco, francese, sono un equilibrio di queste due cose. Ora, secondo me noi abbiamo vissuto su queste cose. Se noi oggi, che poi è anche un tentativo di equilibrio fra diritti civili e diritti sociali, se oggi noi ci lamentiamo, perché al fondo della relazione di Pietro c'è forse un'insoddisfazione per, voglio dire, ciò che noi possiamo chiamare oggi cittadinanza e le scarse idee chiare che abbiamo proposito, è perché evidentemente questa terza fase legata al primato della Costituzione e anch'essa a sua volta alla fine si segna il passo, c'è una, ecco, allora forse noi dovremmo sì ricercare il soggetto, l'unità preesistente, dovremmo anche sforzarci di capire che cosa può essere una quarta fase dopo quella della rivoluzione, sono molto schematico, dello Stato di diritto e del primato della Costituzione, su che cos'altro possiamo fondare un buon equilibrio di appartenenza e di diritto. Ecco, credo che sia questo, no, un po' lo sfondo della riflessione costituzionalista, e credo veramente anche questo sia molto presente nella dottrina un po' in tutta Europa. Ho una domanda per Costa, posso parlare in inglese? Thank you. I must first say that I concur with the remark of Skira that you were speaking very quick. So I may have missed some of it, that's my fault. What I was very curious about is the way in which you use this notion of the campo semantico, and especially trying to find out in which way you gave content to this notion of semantical field. I would like to suggest a few interpretations which may be viable, and ask you which of these you would prefer or were using in your own presentation. In a very general sense, you could take the concept of semantical fields to be just a linguistic notion, an indication about the way in which terms are related, and a semantic field is a field of concepts or terms that have some meaningful relation to each other, or that they are used to define each other, or that they are semantically close to each other, so it can be very general. But on the other hand, if you take, let's say, the tradition from which the notion of semantical fields comes forward, there seems to be something else involved as well. That is the fact that any language that is used by persons in a certain social situation. And furthermore, in this tradition of semantical analysis, there is the concept that these persons live in history. So there are supposedly some further requirements you have to pose upon this notion of semantical field, in that it is something within a language of real persons living in history. So it's constrained by several different interests. On one hand, it's real persons, on the other hand, it's history. And I would like to hear your opinion about the following supposition. Wouldn't it be essential for the use of the notion of semantical fields to indicate which historical reality you are discussing, and to indicate which, let's say in the first hand, which social group you are discussing, and on the other hand, which historical period, for example, by giving both the terminus ad quem, but also the terminus a quo, in describing this historical period. And, that's my question. Thank you. Luso. Sentì una domanda a Costa e seguendo però le due riflessioni fatte da Schiera nell'intervento di adesso, anche in quello di questa mattina, e allora velocissimamente, ma pongo un problema relativo a Hegel. A me pare che giustamente Costa abbia messo un po' in crisi o lasciato un po' da parte le ricostruzioni continuistiche che noi troviamo soprattutto per esempio in Germania, nella riabilitazione della filosofia pratica, sul concetto di cittadinanza, proprio perché qui abbiamo una frattura fondamentale, no? Cioè il cittadino di Aristotele è comprensibile all'interno di un contesto concettuale che non ha niente a che fare né con il concetto di uomo, appunto lo chiamo, a cui ci si è riferiti, né con i diritti degli individui propri del naturalismo. Allora, abbiamo questa nascita del concetto moderno, cui diceva, con la rivoluzione e con l'ascendente, io direi duplice, delle due versioni del giusnaturalismo, ma che io vedo sempre come mai totalmente contrapposte. Ecco, e in queste mi pare che è caratteristica una cosa, il soggetto individuale come fondamento, no? Punto di partenza. Punto di fondamento della costruzione è il soggetto individuale. E questo fondamento si paga con il totale annullamento del soggetto per quel che riguarda la rilevanza della sua azione politica. E difatti abbiamo questa trennum che è essenziale, sostanziale, tra pubblico e privato, che si condensa nella nozione moderna di rappresentanza, no? Per cui è impensabile andare a riprendere il buon cittadino di Aristotele quando l'essere soggetti da parte degli individui da un punto di vista totale, non immediato, no? Sia solo attraverso il momento dell'agire pubblico del rappresentante. Ecco, allora mi pare che in effetti però giustamente al rosso della rivoluzione francese, per esempio con Hegel, noi abbiamo un quadro che muta radicalmente. Perché se è vero che in Hegel il momento individuale, no, dell'Einzelheit è un momento senza di cui non si dà azione, proprio perché cambia la comprensione antropologica, cambia il concetto di rappresentanza, e questa soggettività è possibile solo nel superamento del soggetto individuo come fondamento. nei due aspetti che ha nella concezione moderna, rivoluzionaria e anche giusnaturalistica, quello individuale e quello della totalità indifferenziata, che è semplicemente l'altro lato, non è una complicazione, non è qualcosa che va contro, per cui statalismo, individualismo, no, ecco. E perché appunto in Hegel noi abbiamo una, tu provai a chiamarlo ordinamento, no? In ogni caso una cosa complessiva all'interno della quale l'agire ha un significato appunto che non è più riducibile all'aspetto dividiato del privato, no? Perché anche l'agire all'interno della società, l'agire attraverso gli stand ha un significato politico, e lo Stato senza questo significato è anche questo un qualcosa di totalmente particolare, no? Ragione per cui non si può parlare di statalismo in Hegel, proprio per la stessa ragione per cui non si può parlare di individuo come fondamento. Ecco, qui abbiamo un quadro in effetti complesso in cui vengono messi in crisi alcuni dei concetti di cui discutevamo anche stamattina con Fioravanti, no? Per esempio il concetto di potere costituente, no? E il concetto stesso di rappresentanza, eccetera. Però, ecco, è anche da notare, questo può essere solo un punto, un elemento di quel nuovo quadro che si viene formando, è anche da notare, e questo mi pone un problema, come però, almeno a livello, per quel poco che ne so, insomma, della dottrina o dell'elemento legittimante proprio delle costituzioni, rischia di essere sempre quel quadro a cui si è riferito Costa, quello come dire, che ha efficacia, quello che è diffuso, quello che, allora, storia concettuale, linguaggio comune, si è consolidato, no, come il momento legittimante. Ecco, io vorrei sapere su questo snodo hegeliano, anche allora in rapporto a quello che ha detto Stira, che cosa ne pensate. Altri interventi? Io una domanda per la Stella, ma forse la faccio senza microfono. D'accordo su questa lettura della libertà, ma cosa serve? Nel passaggio dalla fase tentativa dello Stato liberale alla svolta di fine secolo, grossomeno, sempre più come polizia, amministrazione, e quindi limite alla libertà, piuttosto che invece sfera attinente al tema di diritto, forte espressione dal punto di vista ideologico di una civilizzazione in ascesa. Mi chiedo, ed è una domanda in realtà proprio di allargamento, ligamento di campo di indagine, questa che tu hai proposto è la lettura di alcuni giuristi liberali, possiamo definirlo così, con tutto quello che in quest'epoca è già più complicata, la definizione porta di impreciso dentro di sé. La mia sensazione è che però un quadro minimamente più sfaccettato, più ricco di risonanze di questo concetto proprio per quest'epoca, probabilmente non si dice, chiamando anche a confronto e alla verifica le eventuali teorizzazioni o posizioni dottrinali di figure che non siano così direttamente identificate, diciamo, con chi approva la riduzione della libertà dell'amministrazione. E la domanda che faccio è questa: non ci sono utilmente confrontabili con queste che hai esposto, prese di posizione, che so, del mondo cattolico o del mondo socialista sul tema della libertà, proprio come risposta in fondo a questa che è una lettura nettamente politica che viene nata del lemma in quest'epoca da parte dei giuristi liberali, facendo riferimento al fatto che questa proposta interpretativa nasce nel contesto dei mutamenti istituzionali e politici dell'Italia del fine secolo. Ecco, credo che la storia del concetto a cavallo tra i due secoli di libertà non la facciano soltanto liberale, ma la facciano anche coloro per i quali invece la lettura di libertà come amministrazione non è esaustiva, soddisfacente e non è mai confortata dal punto di vista dei diritti che propone. Buono. Soltanto una piccola domanda riguardando la presentazione del signor Costa. C'è una parola di Frangieri che ha detto la proprietà fa il cittadino. C'è una tradizione per la significazione e definizione di cittadinanza nell'Italia? Occhio, occhio, occhio, domanda anche, ci sono riguardando da limiti, i limiti di libertà, sono i limiti di tipo di tratti che hanno la testa. Di sparare limiti di libertà, limiti giuristici definiti poco, come lo sviluppo si definiva, o la sviluppo si definiva in allumano troppo simile, che proprio ha avuto giurisdizione di limiti di libertà. Altri interventi? Allora, che io credo che posso rispondere di sì, ovviamente, sulla base del mio intervento. Credo che ci sia una consapevolezza diffusa a due livelli. A livello innanzitutto di consapevolezza di stare vivendo una profonda trasformazione costituzionale in senso lato, e sulla base di questo tutti partono. E poi specificamente secondo livello proprio sul caso italiano. Il caso italiano è risolvibile solo attraverso una tenutissima opera di mediazione, tanto il fatto che le condizioni italiane sono quelle che sono e che la storia del nostro gruppo di Trento da 15 anni a questa parte, possono essere una risposta in questa misura. Merigi, sì, è chiaro che ci sono delle altre posizioni. Il mio discorso vale per gli incenti, cioè per i moderati che sono al potere, che costruiscono il loro potere intorno a questa ideologia confusa. Il professor Monhaut, i limiti della libertà per questi che non sono solo giuristi, gli autori che ho citato, possono essere uomini politici, intellettuali, vari. Penso che il discorso che loro fanno sui limiti della libertà sia proprio un discorso che non va nel senso di una definizione giuridica. E quando parlano dei limiti della libertà, credo che intendano di più proprio andare oltre il giudizio, cioè si rendono conto che non è possibile giuridificare tutto e che resti un altissimo margine al politico, e sta proprio al politico allora definire in dettaglio caso concreto per caso concreto laddove i limiti della libertà debbano essere posti in dettaglio, ma non dal punto di vista giuridico, dal punto di vista proprio specificamente politico. Ma io vorrei ringraziare tutti gli interventi che mi offrono in termini di sono di arricchimento su punti molto importanti e spero di trascurarli nella mia comunicazione, incluso anche per la rapidità dell'occhio che è un difetto produzionale aggravato dall'esigenza di non superare i limiti previsti dal seminario. Venendo quindi non a rispondere con sufficiente attenzione a tutti gli interventi, ma estrapolo alcuni punti che mi sembrano per me più interessanti, cominciando da Pierangelo, molto, molto sommariamente. Locke, certo, Locke non nasce da nulla, perché lei ricordava la fotografia più recente, e continua a essere divisa tra due immagini, continua a contrapporsi di Locke, di un Locke, così dire, ancorato alla tradizione, poi della scolastica medievale cristiana, e di un Locke che invece segna un momento di forte discontinuità in aula, la stagione, certo, anche precedente, ma insomma, conta più per la discontinuità che non per la continuità. Come tutti voi avete visto, la mia immagine di Locke, che è un giocatore piano, fa più un istituto sulla storia della discontinuità che non della continuità. E direi che tutto molto bene ha colto questo aspetto del problema, riferendosi a un'idea di continuità che non è la mia, è assolutamente rispettabile, ma certamente non è qui per il mio fondo, e la mia lettura di Locke fa il problema. Secondo un rilievo di Pierangelo, la lezione di Francine come momento, certo, cioè, come verità, innanzitutto del diritto, ovviamente, e quindi direi di non dirò, ora non voglio entrare nei particolari che sono complicati, ma anche, e dice anche come un momento oltre il quale scatta l'ora X di una nuova tecnologia, quindi va anticipata a quel momento e non posticipata addirittura la voce o l'intervento. E su questo io direi sì e no, dal punto di vista sì, per lui sì, perché certo dopo la rivoluzione francese, dopo la rivoluzione del 400, con l'anticipo, ci si incontra, si parte da punti di vista molto diversi, ma si incontra prima su un aspetto, un ulteriore definire il soggetto in termini non più individualistici, una etica ricorrente tutta la questione francese, di svariatissima tendenza culturale. Questa è stata la teoria stamattina, questo discorso dell'abolismo, l'abolismo, del meccanicismo, l'abolismo, cui si contrappone esattamente l'idea di uomo, l'immagine di uomo, che non sa bene, forse ancora cosa sia, che è molto diverso a seconda della scienza culturale, ma certo non è l'uomo dell'uomo dei bisogni, l'uomo naturale, l'uomo meccanicismo, l'abolismo, così come lo pensavano gli abolismi, secondo me. Ecco, però, al di là di questa parte estrema, diciamo comune dell'antropologia occidentale. Ecco, la parte costruente mi sembra divisa. Parliamo con l'accento all'Ottocento, ma se noi ci riferiamo con la parte, appunto, quella che chiamava la tradizione organicistica e spiritualistica, diciamo stabili per rimanere per giuristi da un lato, e questa invece più avanti nell'Ottocento, un'antropologia di tipo positivistico, sociologistico, non organicistico, ma di un organicismo contenuti completamente diversi, e qui hanno detto si incontrano non più una antropologia, ma due almeno antropologie filosofiche, con la pubblicazione molto interessante, su cui non ho altro da prendere, quella a cui ci invitava a riflettere tutto, dell'interità di che questa pubblicazione è l'ulteriore unità rispetto a quella mia sommaria di partizione di antropologie, che stiamo facendo, che stiamo facendo un secolo, che presenta già un programma fortemente sfaccettato di immagini del mondo. Se arriviamo ad oggi, a me sembra che la complicazione aumenta, sempre su questo terreno, e da che punto di vista che ho l'impressione che noi ci siamo lasciati indietro l'Ottocento, almeno su questo punto, cioè sull'idea di comunque arrivare ad una definizione in qualche modo costosa del soggetto. Io butto là un'ipotesi non ulteriormente meditata da me. Questo è interessantissimo, rincorsa alla nostra indicazione dei diritti, che caratterizza i recentissimi tempi nostri, più in crisi di mano, per fare un piccolo esempio, non può forse rinviare ad una paradossalmente indebolimento del soggetto, ad una frantumazione postmoderna del soggetto, di quel soggetto che ancora ottocentescamente si dà come un soggetto unitario, variamente del diritto, ma comunque forte. Ecco, questo indebolimento del soggetto forse può essere uno dei motivi antropologici dell'oggi che genera la modificazione dei diritti alla quale oggi assistiamo. Gustavo, mi sembrano preziosi tutti gli arricchimenti che hai fornito a tutti noi in risposta all'intervento. Raccolgo del tuo intervento innanzitutto l'accenno alla componente etica. Sicuramente, tutta il dibattito intorno alla cittadinanza è continuamente segnato da questa componente etica che esplode, diciamo, poi emerge oggi in competenza della riflessione di tanti filosofi della politica. Questa componente etica forse emerge con ancora maggiore decisione in rapporto alla componente appartenenza della cittadinanza e non alla componente diritti, o almeno questo certamente dopo la rivoluzione francese. Se si guarda insomma a quelle due appartenenze di cui parlavo, l'appartenenza entro la tradizione continentale di fondazione dei diritti individuali o la componente politica, ecco lì l'eticità sta dalla parte dell'appartenenza, se più che dei diritti. E in quanto il soggetto appartiene alla comunità, al popolo stato, che si arriva ai diritti, ma è contro l'appartenenza che ne vengono quindi i diritti. Conta l'appartenenza alla società e il debito verso la società che poi fonda e legittima i diritti. Ecco, questa componente è fortissima, io la vedrei come particolarmente collegata a questa idea di appartenenza che attraversa, come fondamentale, la storia, la semantica di cittadinanza. Oggi il fondamento di cittadinanza dove lo si legge? Lo si legge in rapporto appunto all'appartenenza a una qualche comunità nazionale o non necessariamente nazionale, o lo si legge in rapporto alla carta costituzionale, e qui si ritrova anche un aspetto almeno del problema sollevato da noi in sezione avanti. E direi, mi sembra che il dibattito contemporaneo operano senz'altro per entrambi i motivi, si pensi alla giustizia di comunità, questa opportuna, l'oltreoceano, dove certamente il tema dell'appartenenza è determinante, la componente etnica o logistica è tanto molto forte. E nell'ambito della nostra tradizione costituzionalistica, forse invece scatta l'altro elemento, e viene in questione l'elemento costituzione, che certamente è un elemento fondamentale, vorrei dire tre parole su questo punto, ricollegandomi alla domanda di Maurizio, unendo quindi i vostri interventi di un attimo. Il problema sollevato da Pasquale Benedugge, la polide. La polide è uno straniero in genere. Certamente il problema straniero si inserisce in qualche modo con difficoltà nello schema marshalliano. Perché che cosa viene meno? Viene meno per l'appunto il tema dell'appartenenza. Tanto più forte quanto più domina sullo sfondo il tema nazione. Tutto l'Ottocento è dominato dalla dominazione, di Stato, e quindi indubbiamente cittadinanza si gioca su appartenenza ai diritti, e di appartenenza alla comunità nazionale, che è un elemento di grande rilievo. Aggiungo però che questo che dici crea un problema di classificazione, cioè di capacità classificatoria del concetto di cittadinanza, non appena lo si sposta dal terreno sociologico in cui è nato al terreno giuridico. Ho l'impressione che un teorico generale del diritto troverebbe in difficoltà a usare cittadinanza per raccogliere tutti i possibili diritti dei soggetti. E aggiungo un'altra considerazione a cui non ho potuto dare a seguito della comunicazione. Si pensi a quelli che oggi sono i diritti dell'uomo, che è una stagione fortunatissima, ma in teoria, non temono che in pratica, dei diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo, per definizione oggi, così come la comunità internazionale definisce, tendono a sganciare questi diritti da un'appartenenza a qualche comunità nazionale e a fondarli, torno di nuovo, a fondarli su una qualche idea di persona che non può non trovare questo fondamento di carattere. Arrivando da Maurizio, si tocca di nuovo il problema della Costituzione, che ho lasciato sospeso un attimo prima. E qui sappiamo tutti come, direi, la costituzionalistica più interessante, almeno per me, lo so, penso alle voci di Baldassarre, che mi sembra voce di grande interesse, le voci sui diritti sociali e su libertà, penso a Ferraiolo, a certe pagine del Focus Magnum sul garantismo. E qual è il problema? Baldassarre, ad esempio, delinea un po' una vicenda storico-costituzionale che ha queste tappe, sommariamente dette, lo Stato di diritto delle origini, del liberalismo classico, conquista e distinzione legge e Costituzione, e tutte le insufficienze che ne conseguono questo della garanzia dei soggetti, segue la stagione, vediamo un tempo, segue la stagione delle costituzioni rigide, che è la distinzione tra costituzione e legge, e arriviamo ad oggi, ma non ci possiamo fermare al momento della costituzione rigida, perché non è di per sé una garanzia sufficiente. Perché non lo è? Non lo è perché anche la costituzione è può essere, in interpretazione, esposta al punto di equilibrio del diritto giuridico, cioè ai contraccolpi della maggioranza parlamentare. Una costituzione, per rigida che sia, può, se vuoi con qualche potere agire la grande politica del chiesto, ma può senz'altro essere profondamente trasformata da un colpo di mano parlamentare, ed ecco che allora frammano tutte quelle capacità di resistenza che alla costituzione rigida un po' frettolosamente determina. Come si risponde a tutto questo? Si risponde facendo un ulteriore passo all'indietro e dicendo la costituzione non è un luogo unitario, ci sono parti in qualche modo cadute della costituzione suscettibili di essere modificati dalla legge parlamentare, ma c'è un come si dice con un'espressione che dico ironicamente, lo zoccolo duro della costituzione, che deve reggere tutto questo gioco di maggioranze parlamentari, perché rinvia una serie di principi costituzionali non semplicemente definiti, principi che appartengono alla civiltà giuridica, alla forma di vita condivisa, alla comunità nazionale, non so bene cos'altro, quei principi che stanno comunque al di là dei giochi della maggioranza parlamentare. E dopo questo lungo giro, probabilmente l'ultima spiaggia, diciamo così, della posizionalistica è punta a fondare l'idea di cittadinanza come insieme di diritti effettivamente garantiti, e su questo insieme di principi che nascono, che sono ospitati nelle costituzioni delle democrazie odierne, ma in qualche modo vanno necessariamente oltre, tanto oltre da non essere più soggetti ai conti in mano della maggioranza parlamentare. Vi chiedo, qual è questo oltre? Ferraioli parla naturalmente di persona, del valore assoluto della persona. Questo, di nuovo siamo di nuovo a ragionare intorno a un fondamento antropologico, necessariamente metafisico, addirittura esattamente metafisico, che gioca le sue carte, le sue ultime carte in difesa dei diritti del soggetto, necessariamente andando oltre il meccanismo puramente costituzionale e ancorandolo a una qualche immagine di soggetto che va necessariamente al di là del dato positivo, anche del dato positivo e costituzionale. E torniamo così un po' all'origine del discorso di Perangelo e alla conclusione del mio. Quale cittadinanza e su quale immagine di soggetto? Chiedo scusa perché nell'ordine delle mie risposte ho dimenticato un punto molto importante, che è l'intervento del collega Blum e un accenno all'intervento del collega Monhaut. E brevemente al collega Monhaut, la frase di Finangeli che cita, mi sembra non la conoscevo, è molto bella e molto chiara per sintetizzare in due parole quello che è la mia convinzione per quanto riguarda il gioco uomo, cittadino, fra 7 e 800. Un gioco, confermo, tipicamente locchiano. Un gioco che continua per l'Italia 7-800esca? Io direi di sì, nel senso che, ecco qui, ho l'occasione di dire due parole su quello che sono diffuso a cui mi riferisco. Si legge da parte dei giuristi della dell'Italia 7-800, Locke, lo suscita testualmente? Io direi di no. Ma si usano certamente argomentazioni che sono locchiane, e lo storico riconosce come locchiane. Si legga, non in Italia di Francia, un commentatore duramente positivista, duramente decennico, come il titolo del Cotta Poleotta, si leggono i commentari agli articoli che ci hanno preso la proprietà, e vedremo che le argomentazioni di sostegno sono, certo senza dirlo, manifestamente locchiane. Ecco, in che senso? Io parlerei di un locchismo diffuso e di un locchismo che va al di là della sua sede d'origine, diciamo teologicamente accettabile, e invade certamente una parte non piccola della cultura giuridica italiana e francese del primo ottocento. Vengo all'intervento del collega Blum e concludo, e lo ringrazio della richiesta di precisazione perché è un punto certamente rimasto non definito dalla mia comunicazione. Quando parlo di campo semantico, io mi riferisco alla nozione così come si è venuta consolidando nella linguistica novecentesca, direi a partire da Trigger, che mi sembra che sia il linguista che ha dato il primo contributo in tema, e in genere a quello che qualche Ullman ci dice a proposito di una semantica strutturale concepita appunto come un meccanismo che produce significato, facendo sì che una parola significa non in quanto tale, ma in quanto momento di intersecazione, momento di connessione di una costellazione che si chiama appunto. Una parola funziona grazie a questo sistema di interazioni, grazie a questa struttura appunto. Detto questo, non è tutto, detta la prima parte del problema, perché, come giustamente dice il collega, si apre poi tutto un secondo aspetto del problema, rapporto fra il funzionamento semantico del termine e il contesto, cioè la storia di Cicero. Il contesto intertestuale e estestuale. Chi parla dicendo che cosa? Quindi non c'è dubbio che se si andasse al di là del mio semplice indice o proponimento, un programma di lavoro in cui molto disinvoltamente saltava da Rousseau a Locke ai batteri funzionari, cioè sul lavoro analitico, non c'è dubbio che si dovrebbe riferire il campo semantico di cittadinanza volta a volta a un tipo di testo e di contesto, non necessariamente paragonabile ad un altro. Il testo di battere un funzionario non è il testo Locke, non è il testo Rousseau,